Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Lo facciamo nella persuasione che la vita e la qualità della vita della specie umana sul pianeta Terra potranno essere salvaguardate solo se si affermerà una visione non antropocentrica, bensì aperta a considerare dignitose e meritevoli di tutela tutte le forme di vita sul pianeta. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare un contributo a questo cambiamento di prospettiva. State ascoltando la puntata numero 724 e parleremo di piccole isole del Tirreno, di emirati petroliferi chiamati a compiere imprese politiche forse fuori della loro portata, di avventure umane al seguito delle meraviglie negli oceani, della presenza degli animali nel cinema. La ricetta della settimana è come sempre firmata da Gabriele Palloni, la colonna sonora stavolta è affidata alla raffinata sensibilità musicale, e non solo musicale, di Gianluca Masala. Abbiamo parlato la settimana scorsa della vicenda dei mufloni dell'isola toscana del Giglio, ospitando un contributo di Kim Bizzarri, naturalista e attivista che ha esposto le molte argomentazioni contrarie al progetto del parco dell'arcipelago toscano e della regione toscana di eradicare, cioè sterminare, tutti i mufloni rimasti sull'isola dopo il piano di trasferimento in siti protetti di alcune decine di esemplari curato in passato dall'AV e WWF. Ebbene, il parco nel frattempo ha portato a termine il suo mortifero progetto e ha dichiarato che sull'isola non dovrebbero esserci più mufloni. Si usa il condizionale perché non v'è certezza e nel corso del 2024, è stato spiegato, saranno fatti dei monitoraggi per verificare che non ci sia più nessun muflone vivo. Le immagini degli animali abbattuti a colpi di fucile hanno fatto il giro della rete, aggiungendo orrore alla tristezza che un progetto del genere inevitabilmente comporta, per quanto il motivo delle uccisioni, in tutto 35, sia la tutela della biodiversità, minacciata secondo il parco e la regione dai mufloni, considerati alloctoni, in quanto importati a suo tempo dalla Sardegna. La LAV, Lega Antivivisezione, protagonista nei mesi scorsi, come detto, del trasferimento di 52 mufloni in aree protette, in un comunicato ha espresso tutto il proprio rammarico per l'esito mortale della vicenda. L'AV avrebbe voluto estendere a tutti gli animali questo progetto di salvezza. Per poter facilitare la cattura degli animali, scrive ancora l'associazione, avevamo proposto anche il ricorso all'uso della telenarcosi, incaricando due veterinari per la verifica di fattibilità. Un'attività questa che richiedeva tempi necessariamente lunghi, sia per la progettazione sia per la successiva fase esecutiva. Tempi, a quanto pare, dice l'AV, giudicati troppo lunghi dal parco, che ha quindi deciso di riprendere improvvisamente e unilateralmente le uccisioni, senza neppure premurarsi di avvisare i firmatari dell'accordo sullo stop alle uccisioni, con i quali vigeva un accordo. Evidentemente il parco, conclude l'AV, aveva la necessità di chiudere il progetto nei tempi stabiliti, cioè entro il 31 dicembre, per ottenere i preziosi finanziamenti pubblici e poter di conseguenza sbandierare ai 420 la conclusione della eradicazione dei mufloni del Giglio. Una pagina tristissima. Standing firm on this stony ground, the wind blows hot, pulls these clothes around. I harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle with words for fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide, there's a beauty here I cannot deny. And bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew never cared. Down below on the wreck of the ship are a stronghold of pleasures I couldn't regret, but the baggage is swallowed up by the tide, as Orpheus keeps to his promise and stays by my side. Tell me, I've still a lot to learn. Understand, these fires never stop. This joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus soon. Alla fine a Dubai, al vertice COP28 sull'emergenza climatica, un accordo è stato raggiunto con un colpo di scena all'indomani di una drammatica penultima giornata, quando pareva che si sarebbe arrivati a nulla di fatto, portando addirittura alle lacrime i ministri inviati dagli stati insulari, i più minacciati dal riscaldamento globale. Ci sono arcipelaghi negli oceani dove si sta già parlando di evacuazione di massa. Il peggio a prima vista è stato evitato e l'accordo alla fine è stato firmato, con i media e i leader politici di mezzo mondo che si sono affrettati a dichiararlo storico. Perché per la prima volta, è stato spiegato, vi si menziona la necessità di abbandonare le fonti fossili di energia, come gli scienziati del clima dicono e scrivono in verità ormai da molto tempo. In realtà non è detto che l'accordo riesca a produrre i cambiamenti radicali che sarebbero necessari, tanto che la data delle fatidiche emissioni nocive zero è stata posticipata dal preventivato 2030 a 20 anni più tardi, il 2050. Testo, date e quindi il senso stesso della dichiarazione finale risultano nell'insieme piuttosto ambigui, tanto che sono stati esclusi dal testo finale i termini di cui si è discusso per giorni, phase out o phase down, cioè eliminazione graduale delle fonti fossili, parole che avevano suscitato l'opposizione di alcuni dei maggiori produttori di petrolio. Si è preferito così il meno impegnativo concetto di transizione, transition away in inglese, da attuare in un non meglio specificato modo definito equo, giusto e ordinato. Nulla di quanto appena detto è oltretutto vincolante e quindi non sembra possibile che l'accordo di Dubai sia destinato a cambiare fin da subito, come sarebbe necessario, le politiche energetiche dell'Occidente e degli altri paesi grandi inquinatori. Sono numerose nel testo le falle individuate dalle organizzazioni ambientaliste. Mauro Albrizio, responsabile dell'Ufficio Europeo di Legambiente ed esperto delle COP, ha detto per esempio che non dovevano essere inclusi nell'accordo il ricorso alle tecnologie di abbattimento e la possibilità di usare fossili per la transizione, perché questo fa a pugni con quanto chiede la scienza. Secondo Albrizio, in questo modo si rischia di vanificare sul nascere gli obiettivi di triplicare le rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica. Inoltre, ha spiegato ancora Albrizio, bisognava introdurre il picco dell'utilizzo delle fonti fossili al 2025. E invece non abbiamo neanche l'obiettivo che prevede l'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, secondo cui per essere nella traiettoria del grado e mezzo di innalzamento delle temperature entro il 2030, dobbiamo ridurre estrazione e consumo di fossili fra il 25 e il 40% e l'emissione di metano del 75, obiettivi e tempi concreti che non sono previsti nel testo. Come ha commentato Kajsa Kosonen di Greenpeace International, questo non è l'accordo storico di cui il mondo aveva bisogno. La storia sarà scritta, ha aggiunto, con una vena di ottimismo, se tutte le nazioni, le imprese, i leader locali e le voci della società civile si uniranno con urgenza per fermare tutti i piani di espansione delle fonti fossili che ci stanno spingendo oltre il limite di 1,5 gradi di innalzamento delle temperature. Appunto. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni un'impresa a prima vista molto difficile, cioè proporre una ricetta rigorosamente cruelty free ispirata a Dubai, luogo lontano sia geograficamente sia nelle sensibilità rispetto ai nostri lidi. Sappiamo tuttavia che Gabriele ama le sfide e che la sua inventiva è a prova, se non di bomba, almeno di Dubai. Sentiamo che cosa si è inventato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. C'è chi va negli Emirati Arabi Riuniti a fare le conferenze e chi, come molti di noi, al massimo di Dubai può replicare qualche ricetta. E giusto per alimentare la polemica, probabilmente il nostro contributo sarà più utile al cambiamento climatico del mondo. Gli ingredienti per 4 persone per il Lucky Mat sono 125 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 60 g di latte vegetale, 40 g di zucchero di canna, un pizzico di cardamomo in polvere, un pizzico di zafferano, olio per friggere, sciroppo di datteri, semi di sesamo per decorare. Stemperate il lievito di birra con il latte vegetale tiepido e lasciate attivare per 5 minuti. In una ciotola unite la farina, lo zucchero, il cardamomo in polvere e lo zafferano, mescolando bene il tutto. Aggiungete lentamente il latte vegetale tiepido, mescolando delicatamente con le mani per ottenere un impasto piuttosto denso e compatto. Coprite con un panno e lasciate lievitare per un paio d'ore a temperatura ambiente, fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume. Mentre fate scaldare l'olio, realizzate delle piccole palline con l'impasto. Potete aiutarvi inumidendovi le mani o ungendole con poco olio. Friggete in immersione, mescolando affinché si dorino uniformemente su tutta la superficie. Scolate e fate asciugare su carta per frittura. Condite queste frittelle con lo sciroppo di datteri e i semi di sesamo. Servite calde. Emilio Maggio, esperto di cinema, amico dell'antispecismo, nonché autore, con Massimo Filippi, di un pionieristico libro sugli animali nella letteratura e nel cinema, intitolato Penne e pellicole, edito da Mimesis, sta componendo per noi un originalissimo lessico dedicato agli animali sul set. Oggi tocca alla parola investigazioni. I come investigazione. Questa puntata sarà più riflessiva rispetto alle altre e più teorica, diciamo così. Dunque, le riprese investigative su macelli e allevamenti da parte degli attivisti che si battono per la liberazione animale possono essere utili a sbrogliare il nodo di fondo che unisce o divide a seconda delle modalità con cui si intende affrontare il cinema come dispositivo performante, l'animale da set e il suo contraltare immaginifico rappresentato dal cine animale. Se infatti riflettiamo con più attenzione sul lavoro delle immagini, sarà allora più evidente come l'approccio semiotico, disciplina che studia la significazione, la trasmissione e l'interpretazione dei segni, è non solo attinente alla decodificazione dei simboli, ma anche pertinente alla loro decostruzione politica. Siamo cioè abituati a consumare e leggere questa documentazione riprovvisiva in chiave unicamente etica e funzionale, ovviamente, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle drammatiche condizioni in cui sono costretti a vivere milioni di animali cosiddetti da reddito, che ci forniscono cibo, indumenti, prestazioni lavorative, trascurando, secondo me, il rapporto organico, oltre che storico, che unisce i rapporti sociali da cui dipende il nostro stare al mondo in un regime di capitalismo avanzato come quello odierno, con le articolazioni dell'industria culturale e dell'immaginario collettivo. Una lettura significativa a questo proposito ce la fornisce la stampa italiana, finalmente edita da Tamu e tradotta da Bianca Notariani con la preziosa cura e prefazione di Massimo Filippi e Federica Timeto, del fondamentale saggio di Nicole Shukin, Capitale Animale, Biopolitica e Rendering. In questo volume la ricercatrice canadese connota il mattatoio come spazio dello smembramento animale, lo rapporta alle logiche dello spettacolo cinematografico e al suo regime scopico. In altre parole, i tratti costitutivi del cinema, qui inteso come un insieme di immagini in movimento, possono essere già percepiti e intuiti sia nelle catene di smontaggio dei corpi animali all'interno dei mattatoi di Chicago, sia nelle catene di montaggio delle fabbriche Ford di Detroit di inizio secolo, inizio Novecento. Gli animali condannati ad essere trasformati in carne per essere consumati come cibo, infatti, potevano anche essere consumati allora come spettacolo della morte. Gli animali soppressi e macellati potevano essere guardati dai visitatori percorrendo una balconata che passava sopra una specie di pista dove gli animali venivano uccisi. Come scrive Shukin, la grande macchina di macellazione di Chicago traeva profitto non solo da una lavorazione del materiale animale rapida e massiva, ma anche da un crescente interesse per la visione dell'avvicendamento di vita e morte degli animali e dei lavoratori, soggetti etnografici tra loro intrecciati dall'operosità del capitale. Mi sembra evidente allora che un'analisi semiotica permette di mettere in relazione la nascita del cinema fondata sullo sfruttamento del lavoro animale, la loro forza motrice e il loro movimento consentì a Muybridge di testare i suoi dispositivi proto-cinematografici con la modulazione dei ritmi lavorativi all'interno delle moderne fabbriche industriali e la divisione gerarchica del lavoro e l'organizzazione della riduzione degli animali a carne, cioè a capitale, in quelle fabbriche della morte che sono i mattatoi. Per questo Shukin analizza il caso emblematico dell'esecuzione dell'elefantessa Topsy, a cui ho fatto riferimento più volte in questa rubrica, sia come dimostrazione degli effetti benefici, tra virgolette, della corrente alternata, sia per propagandare il dispositivo cinematografico all'interno dell'impero economico-tecnologico di Thomas Edison. Senza nulla togliere agli attivisti, anch'io, devo dirlo, mi sono avvicinato alla questione dello sfruttamento animale grazie alle loro investigazioni, alle loro immagini, importante è capire come la realtà materiale dello sfruttamento e della messa a morte degli animali sia innegabilmente legata anche alla loro resa simbolica. In altre parole, associare lo sfruttamento degli altri animali solo alla loro alterità e innocenza rispetto a un potere genocidario, ovvero percepirli solo come soggetti subalterni, finendo così per feticizzare proprio la loro subalternità tradotta in immagine, può determinare un'analogia distorta tra riproduzione del capitale e riproduzione della vita animale. Sarebbe forse il caso allora di sviluppare nuove modalità di critica demistificatoria. L'ambivalenza delle immagini in movimento degli animali, percepite contemporaneamente come autentiche grazie ai trucchi del set e come finzionali grazie alle storie narrate, ha lo scopo di depoliticizzare il rapporto di valutazione economica tra capitale e capitale animale, quello cioè di spuntare e rendere simbolica la radicalità delle immagini prodotte dalle investigazioni e la loro efficacia controinformativa. Cito ancora Shukin. L'espressione capitale animale evidenzia contemporaneamente la valuta semiotica dei simboli animali e il traffico materiale di sostanze animali in questo arco di tempo. Ancora più precisamente segnala un intreccio di relazioni biopolitiche all'interno del quale il capitale economico e quello simbolico della vita animale non possono più essere considerati separatamente. Anche se le immagini investigative non sono propriamente cinema, la loro importanza in termini politici ed etici andrebbe comunque messa in relazione con la sottile porosità che esiste tra l'aspetto desiderante del cine animale e quello materiale dell'animale da set. Carl Safina è un biologo e ricercatore, ma possiamo ben dirlo anche uno scrittore, che si è fatto apprezzare in Italia per alcuni suoi libri tradotti dall'editore Adelphi. Ricordiamo i due titoli usciti in passato nella collana Animalia. Uno è Al di là delle parole, il libro che ha proprio inaugurato la collana e che potremmo descrivere come una sontuosa ricognizione nelle forme di intelligenza, di sapere, nelle diverse visioni del mondo che convivono nel mondo animale, a fianco delle cognizioni e delle prospettive di Homo sapiens. Non da meno il nono volume della collana, dal titolo Animali non umani, nel quale l'autore mette a nudo l'infondatezza del luogo comune che vorrebbe la specie umana portatrice di una serie di unicità preordinate al resto del vivente, come la capacità di comunicare, di stringere legami sociali, perfino di apprezzare la bellezza, per non citarne che alcune. Il nuovo libro, uscito per Adelphi, è un altro tomo di oltre 600 pagine, Il viaggio della tartaruga. E come si intuisce dal titolo, è quasi un libro di viaggio, che accompagna il lettore nel racconto dell'avventurosa vita di un animale lui sì davvero unico, visto che parliamo della tartaruga liuto, una specie sopravvissuta all'estinzione dei dinosauri e che già nelle dimensioni denuncia la sua eccezionalità. Pesa mediamente intorno ai 400 kg, ma sono stati registrati anche esemplari da una tonnellata. È la tartaruga più grande al mondo e ha anche altre particolarità. Per esempio si spinge a grandi profondità nei mari, più delle balene, si nutre di meduse e nuota velocissima, più di tutte le altre tartarughe, nonostante la stazza, per la sua speciale tecnica, quasi un volo sull'acqua, usando le pinne frontali. Dicevamo, animali avventurosi. In un'intervista al quotidiano Il Giornale, Carla Safina ha spiegato alcune sorprendenti attitudini delle tartarughe liuto. La cosa più stupefacente? Le loro migrazioni. Sono incredibili. Nel mare non hanno alcun limite e attraversano oceani interi, dalle acque più fredde del nord della Gran Bretagna e del Canada a quelle tropicali. Possono impiegare anche più di 2 anni a completare il loro intero tragitto. Le loro vite sono estreme e sono creature estreme in tutti i sensi. Attraversano gli oceani con qualsiasi clima, sopravvivono alle tempeste e poi tornano sulla stessa spiaggia, quasi nel punto esatto da cui sono partite. C'è qualcosa che le guida, è un mistero profondo. In un'altra intervista, stavolta al quotidiano Il Manifesto, Staffina ha sviluppato una riflessione sul senso del tempo, inevitabile di fronte a un animale che ha 60 milioni di anni alle spalle. Gli esseri viventi, ha detto all'intervistatore Andrea Capocci, hanno una storia di vita e di cambiamenti che dura da centinaia di milioni di anni. Le tartarughe, gli uccelli, noi stessi siamo il proseguimento di una storia che risale a un passato remoto. Se ci portassimo dietro questa consapevolezza, credo che vedremmo il mondo come un luogo sacro. Invece, ci viene insegnato che è un luogo profano, che l'unica cosa sacra è altrove, fuori dal mondo e dal tempo, che il pianeta è qui solo per servirci e non dobbiamo preoccuparci di distruggerlo. Insomma, un libro da leggere. Carla Safina, Il viaggio della tartaruga, Adelphi Editore. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stessa rete. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.